Il punto di Stefano Folli. L'attacco esplicito del premier Renzi alla CGIL e la volontà dichiarata di farla finita con la cosiddetta concertazione possono essere due cose: o il tentativo poco meditato di un uomo di governo già in difficoltà per recuperare credito mediatico, oppure, ed è l'ipotesi a cui si vuole credere, una svolta storica, la fine del potere di veto paralizzante che troppo spesso i sindacati, in modo specifico il sindacato della sinistra, la CGIL appunto, hanno usato per frenare e spesso affossare le riforme. Se è così, vuol dire che Renzi ha davvero messo in gioco il suo futuro politico. Al di là del merito delle scelte economiche che saranno annunciate in settimana, la rottura dei vecchi rituali fra governo e sindacato rimescola le carte, fa crollare gli steccati post-ideologici ed è un tentativo di uscire dalla paralisi decisionale. È un messaggio alla CGIL perché si rinnovi dopo tanti errori ed è un avvertimento allo stesso partito di Renzi, al PD, soprattutto alla minoranza interna che al sindacato è ancora vicina.